Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Gianpaolo Paso, 81 anni, giornalista, saggista, scrittore di Casale Monferrato, sposato, un figlio, padre guardiano di mucche, mamma sarta in una pellicceria. Laurea in scienze politiche, quando il padre gli regala una macchina da scrivere, decide di fare il giornalista, lui è in terza media. Nel 61 è praticante alla stampa, poi redattore capo al Messaggero, inviato al Corriere della Sera, che lascia per Repubblica, contribuendo al suo successo, vice direttore dell'Espresso per 12 anni, interprete spietato dei vizi della Prima Repubblica ai congressi dei partiti. Va col binocolo per non farsi sfuggire nulla. Sua la definizione di balena bianca per la Democrazia Cristiana e quella di parolaio rosso per Fausto Bertinotti. Poi il cambio diverso. Tra i quasi 60 libri scritti, molti sono dedicati alla resistenza, vista però dalla parte dei perdenti, con grandissime polemiche e critiche feroci, ma enormi successi di vendita. Adesso ha scritto L'Italia che non c'è più, il suo ultimo libro. Ecco, Panza, ma quante volte l'hai detto L'Italia non c'è più? Ma lo dico spesso, però mai come adesso. Adesso più convinto delle altre volte. Senti, sono passati 25 anni da Tangentopoli e da Vigo, il presidente della NM, ha detto che oggi c'è più corruzione di allora. Tu sei d'accordo? Assolutamente sì. Sì, eh? Ecco. Però allora vuol dire che hanno sbagliato tutti, i magistrati, i politici magistrati, anche l'informazione, se c'è più corruzione di allora. Ma no, vuol dire che l'Italia è un paese corrotto, è un paese dove, l'ho appena sentito dalla vostra radio, c'è la Gomorra di Vigevano. Ai miei tempi era rimasto famoso un articolo di Giorgio Bocca che di Vigevano diceva 1000 fabbriche, nessuna libreria. Le librerie forse ci saranno, c'è però Gomorra. Senti, ti faccio sentire cosa diceva Montanelli sull'intreccio tra magistrati e giornalismo, che forse è alla base di un problema che c'è in Italia. I giornalisti hanno la loro parte di colpa, perché senza dubbio tramutano tutto in spettacolo, tramutiamo, perché anch'io appartengo alla categoria. Noi facciamo sempre della dietrologia. Noi facciamo sempre del sensazionalismo, noi abbiamo bisogno dello spettacolo, questi sono dei grossi vizi del giornalismo. Questo aver trasformato il giudice in una star è una richiesta della magistratura, del giudice, oppure sono stati i giornalisti? È un incontro fra due disfunzioni e fra due colpe, quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della magistratura. Sei d'accordo con Montanelli? Ma certo, sono d'accordo, sì, però poi mi ricordo anche che il fine del giornalismo, lo scopo è il divertire, quindi ci divertiamo sputandoci. Vabbè, però questo incrocio magistrati-giornalisti, dei danni li ha fatti. Pessimo. Quante indagini a orologeria hai visto entrare a gamba tesa nella politica? Tantissime. Ecco, e quella sulla Consip ti sembra una di quelle? Ne so poco, però mi pare forse con qualche motivo, ma anche questa comunque ne hai viste tante. Ecco, Davigo dice anche che molte volte non c'è bisogno di aspettare la sentenza per far scattare la responsabilità politica, ma un avviso di garanzia non è a tutela dell'indagato? Ma sì, si dice così, in realtà ci sono delle situazioni in cui basta guardare in faccia l'indagato e capire che abbiamo il dovere di mandarlo in galera. Vabbè, mi sembra un po' tanto. Senti, facciamo un esempio concreto. Il ministro Lotti non si è dimesso, ha fatto bene? No, ha fatto malissimo. Perché? Ha fatto malissimo perché non fa altro che confermare la propria inutilità e dare tutto in mano. Ma lui dice che non ha fatto quello che gli ha detto. Ma certo, ma perché ci aspettiamo che qualcuno dica che non ha fatto vabbè, una ma allora cosa. Così giustizialismo sempre. Ma certo. Ah, va bene. Senti, l'Italia non c'è più, l'abbiamo detto, il tuo ultimo libro. Ma quando è che c'era l'Italia? Ma nel mio libro descrivo anche l'Italia che ho visto da ragazzo. Vabbè, c'era perché eri ragazzo. Forse sì. Ecco. Senti, tu sei sempre stato un critico feroce della Democrazia Cristiana. Adesso invece, dopo i vinti della Resistenza, rivalutiamo anche la balena bianca. Ma sì, un pochino sì. In fondo era meno cialtrona dei partiti di oggi. Dici che la DC è morta da decenni, che però i democristiani continuano a comandare. Chi sono questi democristiani 2.0 che continuano a comandare? Beh, il più noto e il peggiore è proprio Matteo Renzi. Ah, lo consideri un democristiano 2.0? Ma come no, non lo so nemmeno se poi sia un democristiano, ma un 2.0 certamente. Ah, beh, sì. Quello sicuro. Senti, ma per te la sinistra odierna è un'araba fenice, con il solo obiettivo di sopravvivere alle divisioni che la dilaniano. Ma ce la farà sopravvivere o destinerà a sparire? Morta, è già morta. Quindi scompare. È già fine. Certo, scomparirà, prenderà un altro nome, ma non sarà più la stessa cosa. Ma quando è che la sinistra, da interprete delle istanze popolari, è diventata il rifugio dei radical chic? Ma un po' da sempre, perché i radical chic scrivono sui giornali, fanno film, stampano libri. E la sinistra gli è sempre andata indietro? Ma certo. Mm. Tu hai scritto che dovendo puntare sul vincitore delle primarie del PD, però dici che sceglieresti Renzi. Perché? Ma perché mi pare più forte e gli altri due troppo deboli. Gli altri due sono delle comparse. Quindi Renzi vincerà, non potrà più fare sfracelli. Tornerà a Palazzo Chigi, secondo te? Ma secondo me quello è un altro problema. Dipende dal Presidente della Repubblica, dipende da tante cose. Senti, ma del ministro Orlando, l'altro uno dei due competitor, dice che è un bravo ragazzo, ma che è mal consigliato. Da chi? Mal consigliato. Se è vero che è sponsorizzato da Giorgio Napolitano, la conclusione è che il mal consigliatore è proprio l'ex Presidente della Repubblica. Di Emiliano hai detto che ha le palle, ma chissà se ha anche il cervello. Perfetto. Sì, perché? Sì. Come mai dubbi sul cervello? No, non sul cervello. Se c'è questo aspetto di un vecchio bifolco ottocentesco che ha imparato a giocare a rugby. Però sai, se fare il segretario del PD, Emiliano è un personaggio che è già sparito, non c'è più. Ah, dici? Sì. Senti, lui non vuole lasciare la magistratura, ha ragione o torto? Ha torto, marcio. Perché? A torto marcio, intanto per cominciare, mi piacerebbe una legge dove chi è magistrato non può entrare in politica e viceversa. Comunque non può tornare, diciamo. Ma non può tornare. Ma lui adesso si tornerà, perché si è messo in aspettativa, esatto. Perderà la corsa con Renzi e dopodiché riprenderà a fare il magistrato. Senti, ma di Berlusconi ha detto che la mummia di se stesso. Sì, purtroppo. Sì. È sempre lì. È sempre lì perché non vuole. E come dice Pansa, ha 81 anni e scrive. Certo, scrive perché si diverte. Anche lui si diverte. Ma lui si diverte. Quindi, insomma, non potrà più scoparsi tutte le ragazzine. Vabbè, senti. Ma almeno si diverte con. Senti, però il centrodestra nelle previsioni sta ricrescendo. Chi sarà il leader del centrodestra? Ma dove sta ricrescendo? L'hai letto nei sondaggi? Sì. Io non mi fido dei sondaggi. No, neanch'io non mi fido dei sondaggi. Del resto oggi sul Corriere c'è scritto che è il contrario, che 5 Stelle hanno più del 30%. Senti, ma se la sinistra si divide e il centrodestra allora non riesce a unirsi, vincono i 5 Stelle. Sì, e sarà un disastro per tutti. Ma su Virginia Raggi, secondo te, c'è stato un accanimento mediatico esagerato? Secondo me sì, ma c'è stato anche un accanimento dei 5 Stelle. Cioè fra di loro una lotta sì, interna. Sì, ma non mandi una ragazza giovane, io sono forse traviato dal fatto che la considero pure bella e quindi la guardo con attenzione. Con attenzione, sì. Quindi non fare il sindaco di Roma ci voleva un generale dei carabinieri. Un generale dei carabinieri. Senti, ma i 5 Stelle come forze di governo sono credibili oppure secondo te sono spaventati? Secondo me quelli più consapevoli, e quindi a cominciare da Grillo per passare ai suoi luogotenenti, sono Di Maio, un po' spaventati. Il Bomba, sono spaventati. Senti, ieri sera dalla Gruber tu hai detto che Grillo però non ti piace, perché? Non mi piace perché è un parolaio, non so, che ormai né rosso né bianco, è un attore. È un comico. Senti, tu hai scritto che gli immigrati sono i nostri nuovi padroni, arroganti, intoccabili, lo dici per esperienza? Ma non me la ricordo, l'ho scritto, però se no, la citi sì, tu l'hai è scritto, vera. Una citazione. Ma sai, la verità è che i migranti stanno innescando in Italia un conflitto che nessuno immaginava. Basta vedere quel che succede sui treni, nelle strade. Ma tu scrivi che fermare Renzi col referendum è stata la rabbia di milioni di cittadini, però dici anche che la vittoria del no ci ha confermato che l'Italia davvero non esiste più. Perché questo pessimismo così grande? Ma perché mi ricordo una frase che De Gaulle aveva detto a proposito dei francesi. Governare i francesi non è difficile, è impossibile. E vale per gli italiani al doppio. Certo. Vabbè. Anche Andreotti l'aveva ripetuta. Senti cosa mi ha detto Renzi di sé quando era ancora premier in un faccia a faccia in televisione. Il suo peggior difetto qual è? Talvolta troppo cattivo, E come un po' arrogante e talvolta anche impulsivo, se no non l'avrei risposto così. Beh, in fondo ha fatto l'autocritica. Troppo cattivo, arrogante e impulsivo. Ma vado a fare il giocatore di football americano perché vuole governare l'Italia. Senti, però c'è un'autocritica invece, anche una consapevolezza, no? Tanti che lo sono non lo dicono. Ah, questo è vero. Però il merito non è di Renzi, ve l'ho detto, è di... Sei tu che l'hai fatto. Senti, dire. Di te stesso tu hai detto: sono un umorale, un ingenuo, a volte mi incavolo, spesso sbaglio. Qual è lo sbaglio più grosso che hai fatto? È fare il giornalista invece che limitarmi da una certa età in poi a scrivere dei libri. E c'è qualcosa che ti penti di aver scritto? Ma tutto sommato no, sarò vanitoso, troppo orgoglioso. Cioè, ma non c'è nessun articolo che non riscriveresti? Non lo so, ne ho scritti talmente tanti, migliaia, come faccio a ricordarmi? Ma c'è qualcuno che ti senti, a cui ti senti di dover chiedere scusa per qualcosa veramente di sbagliato, no, di grosso? No. Sono arrogante, dico no. Accidenti, mamma mia. Senti, hai scritto tanti libri molto critici verso i giornalisti, Carta Straccia, Il potere inutile dei giornalisti, La Repubblica di Barbapapà. Barbapapà è il soprannome di Eugenio Scalfari. Qual è la qualità maggiore di Scalfari? La sua tigna nel occuparsi di quello che ha scelto di fare, il giornalista. Uomo tenace, orgoglioso, perfezionista, grande comandante, grande attore. Tutte è il difetto? Il difetto? Ma chi sono io per indicare il difetto di Barbapapà? Ah, va bene, ok. Ho capito, vi ha convinto. Vi ha rubato l'anima. Senti, ma perché secondo te i media di tutto il mondo non sono stati in grado né di leggere, né di prevedere, né di interpretare prima la Brexit e poi Trump? C'è qualcosa che non funziona? No, ma il compito dei media non è di prevedere o immaginare. Il compito dei media dovrebbe essere solo quello di registrare quel che accade. Quindi però, succede. Però mettendosi a fare previsione non hanno capito niente. Ah beh, cazzi loro. Va bene. Senti, l'atteggiamento di Trump nei confronti della stampa che li piglia pesci in faccia, secondo te ha ragione? No, pessimo. Perché? Ma perché si comporta come uno che voglia essere attaccato? Troppo presuntuoso. Non è una strada? Come? Non è una strada? Che strada? Di voler essere attaccato? Ma vuole essere, no, perché adesso a forza di essere attaccati vengono fuori tante storie che lui avrebbe tenuto sott'acqua. Senti, la stampa italiana però è in una crisi enorme, vende sempre meno. Perché? Ma vende sempre meno perché i giornali di carta non sono più di moda. Sì, ma solo per quello? Ma per anche, il resto sono fatti anche tutti perché, benissimo. No, se devo dire un difetto generale... Sì. Di un settore anche economico a cui appartengo anch'io, è che sono scritti male e in modo confuso. Dici poco. Dici poco. Allora sarà lì la ragione per cui non li leggo. Una delle ragioni è quella. Senti, quanti ne leggi al giorno di quotidiani? Ahimè, 11. 11, da quale cominci? Dalla Verità, che è il giornale che per il tuo giornale, scrivo. Va bene, ma lascia stare la Verità che è un obbligo, diciamo, e poi di seguo il vecchio sistema, cioè? Parto dal Corriere della Sera, vieni giù. Poi faccio Repubblica, che mi fa sempre più incazzare, questo lo dedico a perché? Mario Calabresi. Perché? Perché c'è un ostracismo nei miei confronti, a cominciare da questo libro. Non ne parlano. Che non ne parlano. Ne parlano perché, siccome io ho osato polemizzare con il mitico ingegnere, evidentemente i servi dell'ingegnere che stanno alla guida di Repubblica lo fanno contento. Senti, che cosa consiglieresti oggi a un giovane per fare giornalista? Forse gli consiglieresti di non farlo? No, se gli piace farlo, provi. Provi nelle condizioni di oggi. Che sono non sarà durissime. Facile. Era più facile per me. Senti, in Vecchi, Folli e Ribelli, il libro dell'altra volta, l'ultimo, il penultimo, dice che in Italia il vecchio non piace. Però il vecchio non piace, ma sono quelli che trovano lavoro e i giovani non lo trovano. Quindi sono i giovani che se la passano peggio. Ma non lo so. I giovani sono anche... Pensano sempre che il lavoro sia una specie di grazia o di regalo del soprannaturale. Ma conquistato. che va invece va conquistato. I vecchi fanno quello che possono. Anch'io sono vecchio. Che faccio? Cedo. Ma tutto, scrivi, libri, giornali, eccetera. Anche se dici che non dovresti più scrivere. Chi può fermare il Padre Eterno? Va bene. Finché lui non dirà, Panza, sei rotto le scatole. Tu vai avanti a scrivere. Vieni a trovarci, vai a trovare il diavolo all'inferno. Io continuo. Cioè l'inferno ti fa paura? No. No. Perché non ci credo. Sì, va bene. Mi fa paura il buio della morte. Ok. Però intanto non te ne accorgerai, quindi. Non si sa. Non Senti, lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma è già molto. Senti, tu dici che oggi i padri si comportano da amici al servizio dei figli. E li difendono anche quando hanno torto. È uno dei problemi dell'educazione anche, oggi. Certo, cioè, ma anche delle madri. Certo, le sì, madri i genitori. Sono, un giorno Adele mi ha spiegato che le madri sono diventate le sindacaliste dei figli. È vero. Certo. E allora qualunque cazzata facciano, la mamma li difende, il papà pure, se hanno una sorella anche lei, anziana, anche lei. E quindi, senti, e quindi ai tempi miei i giovani venivano, prendevano solo delle botte. Delle gran pedate. Senti Panza, un altro segno di decadenza, dici, è lo sbandierare le proprie preferenze sessuali. Perché è una decadenza? Ma è una decadenza perché il sesso è una cosa che funziona se resta coperta dal segreto, penso. Mettersi... Quando vedo sfilare gente che... Ma non voglio polemizzare con nessuno. Vabbè, ok. Comunque... Meglio un po' coperti, sei per il burka. Ma certo, certo. Sei per il burka, più o meno. No, è che no, il burka, siamo pazzi. Ah, va bene. Voglio okay. vederle le donne. Ha cominciato, come ho visto con Adele, ha cominciato le gambe. Ah, beh, certo, giustamente. Ti ha convinto subito. Si può dire che l'Italia di oggi è in vendita, eh? No, si può dire, nel senso che è l'ultimo capitolo di questo libro che ho scritto in modo particolare con l'aiuto di Adele che mi ha fatto le ricerche. Sono tutte le aziende italiane che sono state comprate dagli stranieri. Certo, senti, ma sembra comunque che la mala politica fa sempre più scandalo della mala finanza e del malo giornalismo. Perché, secondo te? È perché riguarda anche persone che non hanno soldi, che non hanno studiato, che non leggono un libro, che riguarda la loro vita, e quindi temono di essere feriti dalla mala politica, mentre invece la mala economia e il malo giornalismo, insomma, non li riguarda molto. A proposito di giornalismo, la crisi del sistema bancario è dipesa anche da un metodo incontrollato di gestione del credito? Ma sì, certamente. Io non ho mai chiesto un prestito a nessuna banca. Ecco, ma sei favorevole alla pubblicazione della lista dei grandi debitori del sì, Monte dei Paschi? Sì, certo. Nomi, cognomi, e secondo indirizzo. Te si farà o no? Mai. Mai. Sei a proposito del Monte dei Paschi, senti cosa mi ha detto sempre Renzi qui a novembre. Il 22 gennaio ha detto il Monte dei Paschi è risanato, adesso investire è un affare. Lo penso tuttora e credo che se ci sarà un investitore internazionale o italiano che vorrà investire sul Monte dei Paschi farà un affare. Affermazione grave. È una delle grandi, delle tante bugie del bullo, cioè senti, di Renzi. Senti, ma intanto adesso protagonista della vicenda del Monte dei Paschi, cioè il numero uno del Monte dei Paschi, è stato nominato proprio Profumo, che è, no, è stato nominato a Leonardo Finmeccanica, ma lui è stato uno dei protagonisti del Monte dei Paschi. Come la vedi questa nomina? Non lo so. Non ho idea. Non lo so, però Profumo, che è un banchiere, sì. si è occupato a lungo di credito, di sì. istituti, di banche. Unicredito è andato, Monte dei è andato a dirigere una cosa che farmi. Una cosa, no, un'azienda industriale, un'azienda che produce anche molto specifica però. Quindi non lo so, aspettiamo e vediamo. Vediamo, va bene. Gli diamo credito per adesso. Intanto l'unica strada utile che nel libro tu vedi per l'Italia è quella di un governo tecnico, dici, scrivi testualmente, un insieme di galantuomini non legati ai partiti. Ma non l'abbiamo già visto con Monti, tu, questa avventura? Ma io sì, io però sono convinto che Monti ha fatto quel che doveva. E oggi penso che un governo di eccellenze tecniche potrebbe essere guidato da Mario Draghi, l'attuale presidente della Banca Centrale Europea. Cioè, quindi tu vedi un Monti bis guidato da Draghi? Sì, oppure anche da uno più muscolare, che è il Chi capo è? Della Fiat. Da Marchionne. Marchionne? Ma secondo te rinuncia a tutti quei soldi che guadagna per fare il Presidente del Consiglio? Non so, magari anche con la maturità o con la tarda età si diventa pazzi. Ah sì, vabbè, in questo senso. Senti, ma in alternativa vedi un governo di militari? No, più che un governo dei militari vedo un controllo dei militari, quindi un regime che potrebbe essere molto pericoloso. E devo dire che mi auguro sempre di non vederlo. Ma i militari nelle democrazie non si chiamano la troica che viene da Bruxelles? Anche, ma quella è più giusta. Se stiamo in un sistema complesso come l'Europa e non rispettiamo le regole, cosa vogliamo? Farlo gratis. Facciamo venire il preside. Ma siamo anche. Non possiamo continuare ad alimentare l'Italia scroccona. Senti, ma è vero che non voti più? Certo. Perché? Perché non mi piacciono più i partiti. Ma da quando non voti più? Non è troppo facile così. Tutto va male, piove, governo ladro. Io non è che faccio di mestiere il salumiere oppure il riccone. Scrivo quasi sempre di politica. Il mio voto lo metto nero su bianco su un giornale. Sì. Perché devo andare a votare? Ah, dici, il tuo voto è quello che scrivi. Voto è quello che scrivo. Senti, tu scrivi che le donne sono il vero sesso forte, ma l'hai scoperto solo adesso? No, l'ho sempre saputo, però l'ho sperimentato con l'attuale signora Adele Grisendi. Cioè, lei è più forte delle altre? Certo. Sì, Senti. Non dimentichiamoci che è emiliana. Cioè, quindi diciamo... ha dato un'interpretazione del sesso forte che comanda a volte dico mi sembra di essere tornato bambino quando mia madre fa tutto lei. Mi sistemava la giacca, diceva Giampa sei disordinato, non ti sei fatto la barba prima di andare da Minoli. Ma Minoli non c'ha la televisione, c'ha la radio. Non devi farti vedere trasandato, mettiti la cravatta. Senti, ma l'amore quanto ha contato nella tua vita? Tantissimo. Sì? Senti, ma è vero che... e devo dire che sono sempre stato fortunato. Cioè, senza amore non si vive, non questa si è la vive, verità. Certo. Ah, siamo d'accordo. Senti, ma è vero che hai imparato a usare il computer per scrivere lettere d'amore? No, io non volevo passare dalla macchina per scrivere al computer. Mi ha obbligato a dire. E allora per esercitarmi a scrivere la mattina presto, quando mi svegliavo, che potevo scrivere? Scrivevo delle lettere a lei. Per esercitarti. E dai, ha funzionato. No, allora stavamo già insieme. Stavate già insieme, ok. Senti, Bernardo Caprotti, che è il fondatore di Esselunga, nel suo testamento ha scritto che l'Italia è un paese cattolico che non tollera il successo. Tu pensi che è vero? Ma fino a un certo punto penso che lui abbia sia d'accordo. Perché? Ma perché l'Italia è un paese di piccole persone. Anche di grandi persone. Pulite, oneste, che si vedono qualcuno più fortunato di loro, non si domandano mai se è più bravo. Dicono sempre a un culo che noi non abbiamo avuto. Dici questo. Senti, a te il successo che effetto ha fatto? Nessuno. No, come nessuno? Nessuno, nel senso che se uno scrive un libro, un buon articolo, è anche contento. Però se vende un milione di copie di libri, un po' di, di emozione la prova. Ma più che l'emozione... Vabbè, il conto in banca, ok. Ma A parte il conto in banca, aver scritto qualcosa che colpisce l'immaginazione di tantissima gente e che dice abbiamo trovato un tizio che non conoscevamo che ragiona come potremmo ragionare. Ecco, ma allora ti faccio una domanda al contrario. Un milione di copie l'hai venduto Sangue di Vinti. E dopo... Se uno non vende un milione di copie, dura. No, io non mi pongo questo problema. No? No, perché se uno si pone il problema di fare sempre meglio, dopo un successo per me assolutamente straordinario. Che è Sangue dei Vinti, che è un libro sulle vendette sì, del partigiano. Sì, infatti. Perché? Finisco di scrivere. No. Perché la mia molla non è quella di fare sempre meglio. Sì. La mia molla è di scrivere. Perché scrivere vi allunga la vita. Cioè la tua droga proprio, assolutamente. Droga. Senti, ma tu in Dio credi, no? Non mi sono mai posto il problema. 81 anni, ora riportalo no, però. No, io sono un è vero... È meglio cominciare a un certo sono punto. Un vero distratto. Se è vero, ammesso che esista per davvero, spero che abbia un po' di comprensione. Ti affidi a lui, insomma, al suo buon cuore. Alla sua misericordia, direbbe misericordia. Papa Francesco. Ti piace Papa Francesco? Sì, molto. Molto, perché? Perché è un irregolare, perché rompe gli schemi. Perché è un gesuita. Perché sorprende sempre il mondo. Però tu parli... Sperando che non esageri. Lui è il suo ruolo, quello di infiammare il mondo. Se gesuiti quello devono fare. Però ho letto che parli con un Gesù di legno. Che cos'è sto Gesù? Ma io questa cosa non me lo ricordo. Vabbè, ma le scrivi tu, poi ma non è vero, l'ho non lo so io. Sì. È un Gesù mentale. Vabbè, non importa, se non te lo ricordi è stato sere, un attimo. Prima, no, tutte le sere prima di dormire prego i miei genitori, prego i genitori di Adele, prego le persone che mi hanno amato, una cosa rapidissima, sì, pochi secondi, perché sintesi. Prima di tutto mi è uno spot finale. Aiutino entrambi a dormire bene e a svegliarsi bene, che è altrettanto importante. Senti, di che cosa hai paura oggi, di non svegliarti bene? Ho paura di morire tra le sofferenze, vorrei morire come è morto mio padre. Cioè, mio padre ha 79 anni, è andato a riposare, dopo aver mangiato poco, non si è più svegliato. Oh, fantastico. Senti, Panza, un'ultima domanda. Se tu potessi tornare indietro nella tua vita, a che età vorresti tornare? Se c'è un'età che per una ragione precisa ti piacerebbe... A tutte le età, mi piacerebbe tornare... A ricominciare da zero? No, sì, a cominciare da zero non lo so perché non so come ero a zero. Vabbè, ma insomma... se penso come ero a 5 anni... Andava penso... già bene? Andava già benissimo. Ah, vabbè, quello ok. Grazie, 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, sms, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. Mix 24. Allora, faccia a faccia di Panza, il titolo, Mario? Jump, cioè salto. Jump. Giampaolo. Ammazza, jump. Te sei sforzato. E tu, Pietrangelo? Allora, io farei così. Nessun titolo, perché adesso... arriva la canzone e lì c'è il titolo. C'è il titolo. Va bene, cazzo. Frasi d'amore scritte a macchina. La nostra storia in 4 pagine. E che raccontata ci può perdere? Ah, formidabile. Il tuo avvocato è proprio un asino. No, certe cose non si scrivono. Che poi i giudici ne soffrono. Mi sembra una dedica, un titolo stupendo. E certo, perché lettere d'amore scritte a macchina in questo caso diventano, nel caso di Giampaolo e di Adele, lettere d'amore scritte in Word. È la loro storia. Allora Mario, Jump, dai, facci la bolla. Andiamo. Beh, senti questa che bella. In confusion. One and fantastico, Gabin, The Alchemist, questo è bellissimo. Sì, sono italiani, volevo dire, gente che fa lounge music, sono molto bravi. Senti anche un po'. Allora, Parigi, Italia, beh, insomma, non so, avete visto il dibattito televisivo sulla corsa all'Eliseo? No, no, non l'ho visto. Però molto interessante. Ha vinto Macron, aiutato molto, oltre che dalla sua verve, bisogna dire la verità, dal fatto che aveva il centro della scena. E come tu sai meglio di tutti, Giovanni, avere il centro della scena in televisione è l'inquadratura privilegiata, è il fatto che tu puoi rispondere meglio ai tuoi avversari, insomma li puoi salire sulle spalle, come si dice qualche volta, e quindi il risultato è buono. Era un dibattito molto importante, spiace che i giornali italiani non abbiano... No, ne hanno parlato, ma insomma... Sì, ma insomma, nessun titolo in prima, solo uno strillo del Corriere stamattina, vabbè. Però è molto importante per l'Italia, perché una affermazione netta di Macron potrebbe dare a Renzi naturalmente con un condizionale enorme nel caso di Renzi, diciamo un argomento retorico per rilanciarsi, visto che lui ha copiato perfino lo slogan di Macron. Lo slogan di Macron, ricorda, è Marche, e quello di Renzi è in cammino. Però lì siamo fermi, nel senso che siamo al copiare. Ma è in cammino veramente, ci sono gli scout. È una tipica affermazione scout. È casuale. E l'altro lato della medaglia è che è un'affermazione eventuale, o comunque un buon risultato, perché un'affermazione della Le Pen è molto difficile, un buon risultato invece è possibile. Ecco, un buon risultato di Le Pen consentirebbe a Salvini di proseguire invece la sua corsa, diciamo, all'aggancio di una per ora molto, molto, diciamo, flebile leadership del centrodestra. Quindi era un dibattito molto importante in questa chiave, soprattutto. Salamino! Sondaggi e pedaggi, mai così in alto i 5 Stelle, il titolo di oggi del Corriere della Sera. Beppe Grillo è sempre più despota, qualcuno lo paragona a Erdogan, altri perfino a Pier Ferdinando Casini, ma lui vince e stravince. Ma il garante del movimento, il fondatore di tutti i meetup, il custode dei blog, il guardiano della piattaforma Rousseau, nonché capo primigenio del... Date a fanculo! Ecco, e lui, insomma, toglie e dà a proprio piacimento il simbolo del partito, a prescindere dai risultati ottenuti in qualsivoglia comunaria o municiparia che sia, o nelle regionarie, o nelle nazionarie, o nelle europearie, insomma, fa quello che tutti sotto sotto vorrebbero fare, ovvero decidere. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Sondaggi e pedaggi, giusto, dice Mario. Mai così in alto il gradimento per Grillo. Annulla ogni online che gli capita a tiro. Passa da Roma, decide sull'acqua pubblica, fende la selva di microfoni e taccuini dei cronisti, non dice una sola parola, abbraccia Alessandro Di Battista, si tiene stretto Luigi Di Maio, manda in vacanza Virginia Raggi, incoraggia il dibattito interno. Ovvero, dice loro, chi non è d'accordo con me se ne vada a farsi un altro partito fuori da qui. Insomma, applica la beata democrazia diretta. Non ricandida i dissidenti e svetta nei sondaggi, che staccano il Partito Democratico, così, secondo lo studio di Nando Paglioncelli, di ben oltre 5 punti. E sono tutti punti di sutura col partito del buono, buonissimo Matteo Renzi. Ora, qual è la questione? Che sembra ben lieto di pagare i pedaggi, Grillo. In tutti i giornali è un unico improperio contro di lui. Tutto un alzarsi di ditini di rimprovero, tutto un babau di allarme per la democrazia in pericolo. E però, Mario, i 5 Stelle non la possono sempre fare questa figuraccia da cattivoni. Invece che i like dei nerd, quelli che vanno sulla piattaforma Rousseau di Casaleggio, che è sempre a rischio di facile smentita del capo, si prenda esempio, Giovanni, della democrazia indiretta del Partito Democratico, che è vero e proprio balsamo che raduna i popoli, come quei cinesi, quei cingalesi, quei nigeriani, quei congolesi e quei catanesi pure, li ho visti io, che si sono affrettati al tesseramento per il partito più buono che ci sia, come a Napoli, dove ci si può ritrovare candidati senza necessità di essere informati, perché questo comunque è... Tu dove ci porti? Un po' di America, dai. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on my mind. 4 that wanna own me, 2 that wanna stone me once. She's a friend of mine. Sono proprio forti, ragazzi. Sempre verdi gli Eagles. Allora Giovanni, no, solo per dire che c'è una bella fuga di notizie, bella per noi ovviamente, perché Reuters ha dato il seguente quadretto. Allora Tillerson è il segretario di Stato americano, snobberà un vertice NATO, si prepara a un vertice con la Cina a Washington e poi a un vertice a Mosca con la Russia. Naturalmente nel mondo della diplomazia i parrucconi, cioè quelli che hanno gestito sempre l'ordine mondiale attuale, che in realtà, come sapete tutti, era un disordine, basta leggere anche Kissinger per capirlo, hanno detto ma come fa? Fa perché la NATO comunque resta a guida americana. Beh, finché quindi non è una novità. Gioca in casa. Cioè, ma naturalmente c'è stato un grande clamore. E dunque segnaliamo questa cosa, nelle prossime ore vedrai che avrà degli sviluppi, probabilmente la Casa Bianca dovrà un po' correggere, o forse no. In fondo all'ultimo G20 non hanno voluto firmare un documento comune che si schierava contro il protezionismo, quindi segno che qualcosa sta cambiando sul serio, insomma, in qualche modo le cose dette Trump prova a farle. Esatto. Canzoniere. I suoi difetti erano anche i miei, tutte sue le virtù. L'amai e distrussi. Con le tue mani? No, non con le mie mani. Il mio cuore spezzò il suo cuore. Il suo fissò il mio e appassì. Accidente. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Mix 24. Io ricordo ciò che mi disse Nini Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. Il 6 agosto del 1985 muore Ninni Cassarà, un funzionario di polizia impegnato in prima linea nella lotta contro la mafia siciliana, uno degli uomini più fidati di Falcone e Borsellino. Viene ucciso sotto casa, in viale Croce Rossa a Palermo, da una tempesta di fuoco, 200 colpi di Kalashnikov sparati da un comando mafioso, colpi che uccidono anche l'agente Roberto Antiochia, di 23 anni. Ninni Cassarà di anni ne aveva 38 e dopo la morte del collega Beppe Montana, ucciso pochi giorni prima, il 28 luglio di quella calda estate del 1985, sa di avere le ore contate. Per questo motivo non torna più a casa, non segue mai lo stesso percorso, cambia abitudini e orari. Ma tutto ciò non basta, la sua esecuzione è già stata decisa dalla mafia. Cassarà va eliminato. Si entrava nella logica, nell'intelligenza di Cosa Nostra, che poliziotti validissimi, che non sono avvicinabili, si devono eliminare. Perché passeranno decenni fino a che possono essere sostituiti dalla stessa validità. E quindi dare fastidio a Cosa Nostra. Era un omicidio veramente importante per Cosa Nostra, perché era il dottor Cassarà era un validissimo funzionario, un validissimo investigatore, era una persona temutissima dall'organizzazione. Dunque una persona temutissima che perciò andava eliminato. Questo era Ninni Cassarà e in occasione della giornata della memoria, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, noi ripercorreremo la sua storia. Rifai il canzoniere che non abbiamo avuto ancora. I suoi difetti erano anche i miei, tutte sue le virtù. L'amai e distrussi. Con le tue mani? Non con le mie mani. Il mio cuore spezzò il suo cuore, il suo fissò il mio e appassì. 800 24 00 24, ricordo il numero verde 349 238 6666, l'SMS. C'è un aggiornamento Mario? Sempre dall'America, sempre una cosa un'esclusiva di Reuters in questo caso, che è importante. E l'amministrazione Trump metterà nuove dure sanzioni sulla Nord Corea, quindi lì la situazione si sta aggravando ulteriormente. In Nord Corea. Sì. Se adesso col professor Roberto Bernabei noi commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Lancet, febbraio 2017. Rapporti tra vivere vicino ad arterie trafficate ed inquinamento con la demenza. Le malattie croniche non infettive sono in qualche modo legate anche alle particelle inquinanti contenute nell'aria che respiriamo, così come sono legate queste patologie croniche non infettive alla povertà, a una dieta scorretta e alla diminuita o mancata attività fisica. In questo studio si è voluto studiare in quasi l'intera popolazione adulta dell'Ontario, che è la provincia più grande del Canada, sono state studiate il rapporto in questa popolazione per 10 anni tra inquinamento e sclerosi multipla nei giovani, i 20-50 anni, e il rapporto tra inquinamento e demenza e Parkinson nei più anziani, i 55-85 anni. Il tutto naturalmente calcolando anche il reddito, il diabete o i traumi cerebrali di questa popolazione, perché, come si dice, ci sia una correzione statistica e che questi fattori non incidano nel risultato finale. Qual è allora il risultato finale? Bene, c'è un'associazione tra chi vive a 50-300 metri da una via molto trafficata rispetto a chi vive oltre i 300 metri e c'è un'associazione appunto con la demenza, così come c'è più demenza in città rispetto a chi vive in campagna. Questo vuol dire, soprattutto perché non c'è associazione tra sclerosi multipla e Parkinson, che la neuroinfiammazione, la neurodegenerazione che è tipica dell'Alzheimer viene influenzata anche dall'inquinamento. Stiamoci accorti e cerchiamo, per quello che è possibile, di campare lontano da vie molto trafficate. E per chiudere, ogni favola è un gioco di Edoardo Bennato. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo. Ed è vero soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti lissi, felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Follow.